boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da K e un saluto da Drago. Sì, mi è scappata, dai. Ma Drago! Cosa? Ma ti è scappata e si sente. Ma non sono io, è Tito. Tito! Poi mi è scappato allora. Una U, mica mi è scappato altro. Vabbè, ma le U di solito mi capuzzano così. Vabbè, dai, oggi parliamo di un paradosso, il paradosso delle notizie sulla salute dei bambini. Oh, beh, molto interessante. Molto interessante. Ma è davvero. La cosa bella, quando ci si occupa di bambini come facciamo noi, bella. La prima cosa bella è che ogni settimana ti trovi a confronto con notizie relative a scoperte medico-scientifiche sui bambini. Sì. Molte di queste hanno a che fare con i bambini obesi. Allora, un giorno esce la notizia che l'obesità si riscontra maggiormente nei bambini a cui sono state asportate le tonsille. Ma in che senso? Nel senso che hai capito, cioè per qualche strano caso si è notata una corrispondenza tra bambini obesi e bambini senza tonsille. Fanno degli studi, vedono che le due cose vanno spesso pari passo, solo che il giorno dopo annunciano che l'obesità infantile è dovuta alla carenza di vitamina D, che si trova soprattutto nel pesce. La vitamina D? D. Vabbè. Cioè, dopo anni e anni che si fanno le diete, esercizi, operazioni, ti tolgono un pezzo di stomaco, lo stringono, scopri che devi tenerti le tonsille e mangiare il pesce. No, ma aspetta, prima di trarre conclusioni, perché la lista perché è ancora lunga. Bene, è ancora lunga. Aspetta, certo, però il giorno dopo ti svegli e non c'è né la vitamina D e nemmeno quella di prima, le tonsille. Tutti i giornali strillano che l'obesità è legata alla carenza di sonno. Cioè, se ti svegli presto una mattina diventi obeso. Eh sì, e Giuliano Ferrara si sveglia alle 4 del mattino. Certo, però aspetta, il giorno dopo l'obesità infantile è dovuta alla colazione a base di cereali. Meglio una fetta biscottata, insomma, quelle robe lì. Poi il giorno dopo salta fuori che basterebbe mangiare più frutta per non diventare obesi. Però subito dopo ti spiegano che i bambini obesi in generale mangiano meglio e in modo più equilibrato dei loro amici magri, solo che non fanno sport. Hanno spesso genitori obesi. Sono obesi. Allora ti dicono che se la mamma è obesa, il bambino obeso rischia di avere un'insufficienza renale. Sì, lo so, Tito. No, c'ha ragione. Sembra un casino, però sono tutte cose vere. Guarda che ho qui tutte le fonti, se vuoi controlla pure. Vabbè, ma mettendo insieme Tito. Tutti sti dati, l'identikit del bambino obeso sarebbe un bambino in dialisi, privo di tonsille, che non mangia pesce, però si abbuffa di cornflakes, dorme poco, non fa sport e mangia poca frutta. Sì, hai capito tutto, sì. Quindi ragionando al contrario, il bambino magro è un bambino che fa nuoto agonistico con le tonsille infiammate. Poi si aggrava, perché nella piscina passa nei giorni, lui nuota con le si nutre di frullati di pesce e frutta tutti insieme in un secchio e quando non fa sport dorme. Perfetto. Una bella vita di merda. Ci sono tante fragoline, tutte rosse piccoline. Ci sono tante pecorelle, tutte bianche, tutte belle. Ci sono fiori nei giardini, ci sono tanti pesciolini. Tutto questo sai perché? Conta 1, 2, 3. Conta 10, conta 20, conta tutti quanti i denti. Conta, conta, tamburino, che il nemico è qui vicino. Poco male ci farà se nel cielo volerà, volerà, volerà. Se giochiamo in compagnia, il nemico scappa via. Vola, vola, canta, canta. Scrivi sulla carta bianca, io ti scrivo e ti rispondo. Ho girato tutto il mondo fino al giorno 23 a star sotto. Tocca proprio a te. Rimanendo sull'argomento dei bambini obesi, ci sono guai in vista per la Ferrero, perché una mamma americana ha deciso di sporgere denuncia contro gli spot della Nutella che hanno la pecca di non dire che la Nutella fa ingrassare. Vabbè, ma dipende da quanta ne mangi, scusa, che ragionamento è? Beh, tu vallo a spiegare a quegli avvocati che di mestiere intentano class action una dietro l'altra. Non so all'estero, però in Italia si fa pubblicità al vino, alla birra, agli amari, al whisky, a tutto. Sì. Secondo il tuo ragionamento, quegli spot dovrebbero dire che bere porta all'alcolismo, come sui pacchetti di sigarette. Fumare uccide. Sì. Bere uccide l'alcolismo. Se bevi diventi alcolista e quindi perdi il lavoro, perdi gli affetti, perdi la salute, poi muori e finisci. E come? Finisci per strada, Drago, steso su un cartone a bere vino in cartone. Un altro cartone, no? Vabbè, sì, un altro cartone, certo. Ho capito, però questo non è il mio ragionamento. Ci sono avvocati in America che individuano un tot di aziende floride e gli fanno causa scientificamente. Il ragionamento è: un'azienda che va bene, che ha abbastanza soldi per pagare, preferisce pagare piuttosto che beccarsi un'ondata di pubblicità negativa a mezzo stampa. Mica mi sembra un brutto piano, scusa. Potrebbe essere anche un'idea per i disoccupati. Sì, basta creare una finta associazione dei genitori contro l'obesità, indire qualche conferenza stampa e poi far causa alla Nutella. Stai sicuro che qualche milione di dollari arriva in America? Qui non si può, anche perché qui ci sono gli euro. Già. Questo è molto divertente. Beh, sono tutto elettrizzato, eccitato, elettrizzato. C'è il nuovo disco del Bambino Vasco. Drago, notizia alla prima pagina. Sì. Infatti, da una settimana circa si parla sempre solo del nostro idolo Vasco Rossi. Beh, Bambino lui Vasco, diciamo che è un po' il simbolo. Rossi. Un simbolo di Chiedo Asilo, no? Lui è il Bambino Sgarbi. Sì, però sono due diversi tipi di bambino. Il Bambino Sgarbi è il tipico bambino nevrastenico plus dotato. Il Bambino Vasco invece è un esempio di bambinone, no? Ha compiuto 59 anni da pochissimo. Nelle sue canzoni tende ancora a rappresentarsi come un adolescente cresciuto, no? Che fa le tipiche cose degli adolescenti: si innamora, si disinnamora, si deprime, si incazza e soprattutto cerca di trovare una filosofia di vita. È un artista, scusa, e quindi è sempre alla ricerca di se stesso, se stesso. Sì, no? Si aspetta ancora un po' a trovarsi una filosofia di vita, finisce che la trova quando è troppo tardi. Ma cosa vuoi dire? Ha 59 anni, ha fatto una vita spericolata. Insomma, io se fossi in Vasco Rossi mi darei una mossa. Cioè, quello che mi disturba un po' in Vasco è che sembra sempre confuso, dubbioso, come un ragazzino, appunto. A te ti sembrerà confuso e dubbioso, comunque il suo singolo è già in testa a tutte le classifiche. Come si intitola? No, ho capito che è in testa alle classifiche. Come si intitola? Ma sei scemo? Si intitola già! Ma come è già? Sì, EH, tre puntini di sospensione, già. Hai capito? In certi siti però è senza puntini. Sì. In altri siti c'è i puntini, si capisce. Vabbè. Comunque sarebbe E... pausa già. Vabbè, ma ormai è ufficiale, quindi il Bambino Vasco è afasico. Ma cosa... Già farfuglia sempre nelle canzoni, mo pure i titoli diventano dei farfugli. Ma com'è il testo già? Non è male, guarda, te ne recito uno qualche. Allora, dice: È già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Vabbè, vieni. Riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno, su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Ma cosa? Più su. Ecco, lì, gratta, più giù. Ma più come? Su, più su. Eh sì, perché è la canzone di uno che si fa grattare la schiena, capito? Più su, più giù, più giù, lì. Ah! Arrivano le prime ricette dei finocchi cotti a Chiedo Asilo e radio24.it e anche sulla pagina Facebook dell'Istituto Barlumen, cioè noi, e anche sulla pagina Facebook del Bambino Alberto. Continuate così che prima o poi le sottoporremo tutte filate al Bambino Alberto in questione, almeno non smette di lamentarsi. Ringraziamo per ora Paolo Melzi, che è niente meno che un giornalista di un canale economico finanziario di Sky, per la sua ricetta che leggeremo a tempo debito. Grazie anche a Vissia. Grazie. Si chiama così, Vissia Nucci. Grazie. Che invece dice di fare così: caro Bambino Alberto, prendi un finocchio, lavalo e taglialo. Mettilo nel forno a microonde a una potenza qualsiasi, per un tempo qualsiasi. Poi esci e compra un bel pezzo di pizza e mortadella. Al tuo rientro prendi il finocchio e mettilo nel secchio. Oh, grazie Vissia, la Vissia che strissia. E grazie anche a Carmen, Carlo Meneghini e Giorgia. Molto presto faremo una puntata speciale sulla gastronomia, tutta dedicata al finocchio cotto e alle sue infinite varianti, con le vostre succulente ricette. Torniamo a Nama! E mandate le vostre ricette a... Torniamo da Nana! Chiedo Asilo e radio24.it. Torniamo domani! Ormai si può dire. Ormai sì. Sdoganato. Sdoganatissimo.